Avventurieri, nell'inventario trovate un barattolo contenente sale di boro, l'ingrediente principale per creare una soluzione ignifuga. Serve per proteggervi dalle fiamme, ma va dosato con precisione. Sapete che ogni litro, o chilogrammo, della soluzione deve contenere il 25% di sale di boro. Per coprire interamente i vostri corpi, vi servono 36 kg di soluzione. Quanti chilogrammi di sale di boro vi occorrono per creare la giusta miscela e rendervi ignifughi?